Dai, c'è, io che tardo! E scendete con calzine, c'è se muovate! E che tiene? Che è un bello cliente, gioia! Se mi può fare la vera o no? Mi può fare lavorare? Sì o no? Sì, e io pago! Comunque, le pilote che le gambe che mi parla un giovallo! Ma sono sempre mandato Filippo Calippo, ti puoi lamentare tu! E tanto siamo per il telefono, che te ne frega, no? Muovati, che c'è già la prima telefonata! Sì, buonasera a tutti, sono Felicetta, la donna che vi fa nascere Rubetta. Ma va, fa solo d'inverno, senza io inclusa. Siccome sono per telefono, e non posso farvi da niente, e non posso farmi anche nascere Rubetta, raccontatemi il posto più strano dove l'avete fatta l'amore. Pronto? Purtroppo. Ciao Felicetta, sono Enzo da Rossano. Ah, Enzo da Rossano, il primo pervertito della serata. Gioia, e dove chiami? In effetti, sì, io modestamente... Ma forse per caso vai andare al tuo mare? No, io modestamente giro il mondo, ho un bel timbro di voce. Cosa ha avuto? Mi immagini i femmine che tiene? Modestamente non so dove andare a sbattere le braghe, guarda. Allora, raccontami un tuo episodio. Allora, io sono un grande tifoso milanista. E i sognerai Juventus? Anche una cosa? Va bene, nessuno è perfetto. Comunque, dice tu? Comunque eravamo a Manchester il 28 maggio 2003. Stutta la trasmissione, reggi! Stutta la trasmissione! Stutta la trasmissione! Io devi facitare a casa se sciruppetti, chiudi la telefonata. Non è stato palco un rocco. Ma fa sciruppetti e va in pollo natunaggio, va. Non siete democratici. Comunque il 28 maggio 2003, ecco, io e la mia ragazza abbiamo fatto l'amore proprio mentre Shevchenko segnava il rigore decisivo sotto la curva del Milan. Guarda, è stato stupendo. Ma ormai visto che con te che se vai a cazzo mia, te ci potevi piare un giorno quando ha segnato Shevchenko. Con tutta la scirubetta che ti avevi portato. No, ma continua come vuoi. Sì. Oh, ma forse c'era pure chi a Manchester, ma c'è qualcosa di buono. Ma diciamo che c'era purtroppo. Agnello mi ha pagato, anzi dopo il canno, quando ancora gli è quella sponda giusta, è tanto ormai. Io invece ho iniziato una storia con il fratello Gelli Seedorf, credo che ha giocato a Romanzo. Tanto ti fa capire. Ma quello ha fatto tutta la curva di Enzo, un gova che è morto. Ma che sta condannando tu, Nacho? Ma guarda, forse non ti ricordi bene, tu devi avere qualche problema di memoria. No, guarda che io purtroppo mi ricordo buon che la sera. Soprattutto il fratello Seedorf, a Stefanuccio. Se tu che non nu vomora la capa, che ci hanno messo la telefonata per l'anime di morso 20 minuti che vuoi stai dicendo. Ce n'è Nacho che già che è tardi? E è meglio cogliere dove fai il pucalippo? Ciao, signor Giovannini. Giovanni hai chiamato il crocifisso e tieni un problema. Ma già che chiamano il crocifisso secondo me tieni un problema. Comunque, dicemi chi tiene zietta tu. Allora, prima cosa non ti chiamo zia. Praticamente tieni un amico che la giota improvvisamente è diventato riccione. Tieni un amico o ci sei diventato proprio tu? No, non è un amico me che gli tocca un francese e è diventato riccione. Io la miseria che disgrazia. Ma prima che era attivo oppure all'alla oppure all'ovo lollo. Come che era? Ma che mi giuni? Però mi guarda questo sguardo, proprio il telefono che mi fa sgrizzare le carni proprio. Ma che l'amico mio o francese? Ma tutti i rua secondo me. O francese va già tutti i tre, l'amico mio. Ah, è proprio complesso. Mi fa piacere. Ah, mo è proprio passivo, proprio X insomma. Ma che sui genitori tena purtroppo? Sì, va, come te viene? Sì, stanno pure buoni i saluti. E allora se faccio le fa da capo, che se ne ha già battuto a copiati i Pierino, io volessi sapere che mi scrivi il copione, comunque. Ma guarda tu che gente manda capitano, pur se c'è un ricchione che tu guarda tipo Godzilla là, o Mandrake, o un ricchione di Tolana, anzi. Ma chiudiamo quella trasmissione per piacere con Giavazzo, che io guarda dopo Manchester, mi sono caduto proprio in menopausa, guarda. Quello già è la pressa mia della regia che mi è caduto. Tu fatti i cazzi tuoi, questo semenno. Chiudiamo la trasmissione che è Cabanna Cerufrati Seedorf Stefanuccio che mi aspetta. Tanti saluti dalla vostra Felicetta, speriamo che vi siete fatti una scirubetta. e non sembra vista. Che se